Ad alta voce, Peppino Mazzotta legge La linea d'ombra di Joseph Conrad. Mai in vita mia mi ero sentito così staccato da tutti gli avvenimenti terreni. Pur temporaneamente affrancato dal mare, conservavo la mentalità marinara di una completa autonomia nei confronti di tutte le vicende di terra. Come potevano riguardarmi? Fissai l'animazione del capitano Gilles più con sprezzo che con curiosità. Alla sua domanda, ovviamente preparatoria, se quel giorno il cambusiere mi avesse o no parlato, risposi di no. E che per di più avrebbe trovato pochissimo incoraggiamento se avesse tentato. Non desideravo affatto che quel tizio conversasse con me. Senza darsi per inteso dinanzi alla mia petulanza, il capitano Gilles, con aria di immensa sagacia, prese a raccontarmi minuziosamente una storia a proposito di un piantone indigeno della capitaneria. Una cosa senza capo né coda. Si era veduto quel mattino un piantone passare sulla veranda con una lettera in mano. Era una busta ufficiale. Come consuetudine di quella gente, l'aveva mostrata al primo bianco che aveva trovato. Era il nostro amico della poltrona sdraio. Quello, come sapevo, non era in condizione di interessarsi ad alcuna faccenda sublunare. Riuscì solo a far cenno con la mano al piantone di andarsene. Il piantone girellò lungo la veranda e capitò dal capitano Gilles, il quale vi si trovava per un caso straordinario. A questo punto si interruppe con un'occhiata densa di significato. La lettera, continuò a dire, era indirizzata al capo cambusiere. Ora, perché mai il capitano Ellis, il comandante di porto, scriveva al cambusiere? Comunque, questi andava ogni mattina alla capitaneria a presentare il suo rapporto, a prendere ordini e così via. Era rientrato da non più di un'ora quando un piantone s'era messo a dargli la caccia con un biglietto. Per quale motivo, dunque? E si mise a fare delle ipotesi. Non era per questo e non poteva essere per quello. Quanto a quest'altra ipotesi era impensabile. La futilità di tutto ciò mi faceva stare con gli occhi sgranati. Se quell'uomo non fosse stato in un certo senso una persona simpatica, mi sarei sentito offeso come per un insulto. In realtà ero soltanto dispiaciuto per lui. Qualcosa di notevolmente serio nel suo sguardo mi trattenne dal ridergli in faccia. Non gli feci nemmeno uno sbadiglio, rimasi semplicemente con gli occhi sgranati. Il suo tono prese un'ulteriore sfumatura di mistero. Non appena l'amico, voleva dire il cambusiere, aveva avuto quel biglietto, si era precipitato a prendere il cappello ed era corso fuori della casa. Ma non perché il biglietto lo chiamasse alla capitaneria, non era andato lì. Non era rimasto assente abbastanza a lungo per esserci andato. Era rientrato in un baleno, aveva sbattuto via il cappello e si era messo a scorrazzare in sala da pranzo, gemendo e picchiandosi la fronte. Tutte queste interessantissime circostanze e manifestazioni erano state viste dal capitano Gilles. Da allora, a quanto pare, ci stava meditando. Cominciava a farmi una profonda compassione e con tono che cercai di rendere il meno sarcastico possibile mi dissi lieto che avesse trovato un tema di occupazione per la mattinata. Con il suo disarmante candore mi fece notare, come se la cosa dovesse avere una qualche conseguenza, quanto era strano che egli si fosse trovato a trascorrere tutta la mattinata in casa. Di solito, prima di colazione, era fuori, in giro per gli uffici, a trovare gli amici giù al porto, e così via. Alzandosi si era sentito un poco indisposto, nulla di grave, solo quel tanto da sentirsi pigro. Tutto ciò con uno sguardo fermo e sostenuto che, unito alla generale vacuità del discorso, dava l'impressione di una mite e cupa follia. E quando tirò un po' più avanti la sedia e abbassò la voce fino a una profonda nota di mistero, mi balenò all'improvviso il pensiero che una buona reputazione professionale non è necessariamente garanzia di una mente equilibrata. Non mi venne affatto in mente, allora, che non sapevo con esattezza in che cosa consisteva l'equilibrio mentale, né quanto tale questione fosse difficile e, tutto sommato, poco importante. con una vaga intenzione di non offenderlo, rimasi a guardarlo mostrando interesse. Ma quando passò a chiedermi misteriosamente se ricordavo ciò che era avvenuto un attimo prima tra quel nostro cambusiere e quel tale Hamilton, mi limitai a bofonchiare un arcigno assenso e volsi il capo altrove. «Sì, ma ricordate parola per parola?» insistette con garbo. «Non lo so, non sono affari miei», sbottai, per di più mandando esplicitamente all'inferno il cambusiere ed Hamilton. Avevo voluto mostrarmi energico per troncare corto, ma il capitano Gilles continuò a guardarmi pensieroso. Nulla poteva fermarlo. Continuò facendo notare che quella conversazione coinvolgeva la mia persona. E poiché cercai di insistere nel far vedere che non me ne importava, divenne decisamente implacabile. «Avevo udito che cosa aveva detto quello?» «Sì? Allora che ne pensavo?» «Voleva saperlo». Dato che l'aspetto del capitano Gilles escludeva che egli avesse una benché minima intenzione di slealtà e di malizia, giunsi alla conclusione che egli era semplicemente l'imbecille più privo di tatto che potesse esistere. Mi vergognai quasi di me stesso per la mia debolezza di voler illuminargli l'intelletto. Mi misi a spiegare che non ne pensavo proprio nulla. Hamilton non meritava che uno se ne desse pensiero. «Ciò che un maleducato fannullone come lui, sì, è proprio questo», interloquì il capitano Gilles, «potesse pensare o dire, non meritava neanche il disprezzo di un uomo per bene, ed io non avevo l'intenzione di prestarvi la minima attenzione». Tale atteggiamento mi pareva così semplice ed ovvio che fui davvero stupito di non ricevere da Gilles alcun segno di approvazione. Una stupidità così perfetta era quasi interessante. «Che cosa vorreste che facessi?» chiesi ridendo. «Non mi metterò ad attaccare lite con lui per l'opinione che si è fatta sul mio conto. Certo, ho udito in che maniera sprezzante parla di me, ma non è mai venuto a importunarmi direttamente col suo disprezzo. Non lo ha mai espresso a portata delle mie orecchie. Anche un momento fa non sapeva che potessimo udirlo. Mi coprirei soltanto di ridicolo». L'inguaribile Gilles continuava a fumare la pipa imbronciato. Tutto a un tratto si illuminò in volto e parlò. «Non avete afferrato l'essenziale del mio discorso». «Davvero? Sono lietissimo di saperlo», dissi. Sempre più animato, ribadii che non avevo afferrato l'essenziale, neanche un poco, e con crescente compiacimento mi comunicò che poche cose sfuggivano alla sua attenzione e che aveva una certa abitudine di meditarle al fondo e che, data la sua esperienza di vita e di uomini, giungeva in genere alle giuste conclusioni. Quello squarcio di autoincensamento quadrava a perfezione, naturalmente, con la faticosa vacuità dell'intera conversazione. Ciò rafforzava dentro di me quell'oscuro sentimento che la vita fosse soltanto uno scioppio di giorni, il che, quasi inconsciamente, mi aveva fatto lasciare un posto gradito, dei compagni ai quali ero affezionato per sfuggire alla minaccia del vuoto, e ritrovare la vacuità alla prima svolta. Ecco lì un uomo, di stimata indole e capacità, che si rivelava un assurdo e noioso chiacchierone. E così era probabilmente ovunque, da Oriente a Occidente, dalla cima al fondo della scala sociale. Un grande scoramento si impadronì di me, un torpore spirituale. La voce di Gilles continuava a parlare compiaciuta, la voce stessa della vuota presunzione universale. Non me ne arrabbiavo neanche più. Non c'era da aspettarsi dal mondo nulla di originale, nulla di nuovo, di sorprendente, di significativo. Nessuna occasione di scoprire qualcosa di se stessi, nessuna saggezza da acquistare, nessun divertimento da godere. Tutto era stupido e sopravvalutato, proprio come lo era il capitano Gilles. E così sia. Il nome di Hamilton a un tratto mi colpì l'orecchio e mi ridestò. «Credevo che l'avessimo finita con lui», feci con grandissima ripugnanza. «Sì, ma considerando ciò che ci è capitato di udire orora, credo che dovreste farla». «Dovrei farla», dissi raddrizzandomi sulla sedia sbalordito. «Che cosa?» Il capitano Gilles mi considerò con molta sorpresa. «Come? La prova che vi ho consigliato». Andare a chiedere al cambusiere che cosa conteneva quella lettera della capitaneria. Chiedeteglielo, netto e schietto. Rimasi per un po' senza parole. La cosa era tanto inattesa e stravagante da risultare del tutto incomprensibile. Mormorai attonito. «Ma credevo fosse Hamilton che voi...» «Appunto! Non glielo permettete. Fate ciò che vi ho detto. Prendete di petto quel cambusiere. Gli farete fare un salto, ci scommetto», insisté il capitano Gilles agitando solennemente verso di me la pipa accesa. Poi ne trasse tre rapide boccate. La sua aria di acume trionfante era indescrivibile. Eppure continuava ad essere stranamente simpatico. Irradiava benevolenza in modo ridicolo, dolce, solenne ed anche irritante. Ma io freddamente, come chi è davanti ad una cosa incomprensibile, obiettai che non vedevo alcun motivo per espormi ad un rabbuffo di quell'individuo. Era un cambusiere incapace ed un povero disgraziato per di più, ma avrei preferito piuttosto l'idea di torcergli il collo. «Torcergli il collo», disse il capitano Gilles in tono scandalizzato, «non vi servirebbe a nulla». Era un commento così poco pertinente che non gli si poteva trovare risposta. Ma alla lunga il senso dell'assurdo cominciava a esercitare il suo ben noto fascino. Sentivo che non dovevo permettere a quell'uomo di parlarmi più oltre. Mi alzai, dichiarando seccamente che lui la sapeva troppo lunga per me e che io non riuscivo a capirlo. Prima che avessi il tempo di allontanarmi, egli parlò ancora con un nuovo tono di ostinazione e tirando nervose boccate alla pipa. «Beh, è proprio un mascalzone senza importanza. Ma voi semplicemente interrogatelo. E basta». Quel tono nuovo mi impressionò. O meglio, mi indusse a fermarmi. Ma poiché la ragione riprese subito il sopravvento, me ne andai dalla veranda rivolgendogli un cupo sorriso. In pochi passi mi trovai nella sala da pranzo, ora sparecchiata e vuota. Ma in quel brevissimo tempo vari pensieri mi si erano presentati. Che Gilles mi aveva preso in giro, sperando di divertirsi alle mie spalle. Che probabilmente avevo l'aria dello sciocco e del credulone. Che ne sapevo molto poco della vita. Con mia grande sorpresa, sul lato opposto della sala da pranzo, si spalancò la porta di fronte a me. Era la porta su cui stava scritta la parola cambusiere, e fu proprio questi ad uscire dalla sua opprimente tana, con l'assurda aria di animale braccato, diretto alla porta del giardino. Ancora oggi non so che cosa mi indusse a gridargli «Ehi, dico! Aspettate un minuto!» Forse era stata l'occhiata intralice che mi aveva lanciato, o magari era ancora l'influsso della misteriosa serietà del capitano Gilles. Insomma, fu un impulso di qualche genere, un effetto di quella forza latente delle nostre vite che le dirige di qua o di là. Perché se queste parole non mi fossero sfuggite dalle labbra, la mia volontà non c'entrò nulla, la mia esistenza sarebbe ancora stata di sicuro un'esistenza di marinaio, ma in direzioni oggi per me inconcepibili. No, la mia volontà non c'entrò nulla. Invero, appena emesso quel fatale suono, ne fui estremamente pentito. Se l'uomo si fosse fermato e mi avesse affrontato, sarei stato costretto a battere disordinatamente in ritirata. Non mi passava infatti neanche per la mente di dar seguito alla burla idiota del capitano Gilles, né a mie spese, né a spese del cambusiere. Ma qui entrò in gioco l'antico istinto umano della caccia. Quello faceva il sordo, ed io, senza pensarci un attimo solo, sfrecciai lungo il mio lato della tavola da pranzo e gli tagliai la strada proprio sull'uscio. «Perché non rispondete quando vi si parla?» chiesi rudemente. Si appoggiò allo stipite. Pareva un uomo estremamente infelice. L'umana natura, temo, non è tutta bellissima. Ha qualche zona brutta. Mi sentii prendere dall'ira. E ciò, credo, solo perché la mia vittima aveva l'aria tanto smarrita. Quel povero mascalzone. Lo aggredii senza frapporre indugi, Mi risulta che stamane è stata fatta una comunicazione ufficiale per la capitaneria alla casa. È vero? Invece di rispondermi come avrebbe potuto di badare ai fatti miei, si mise a uggiolare in un tono da cui trapelava l'impudenza. Non era riuscito a trovarmi quella mattina, non poteva mica corrermi dietro per tutta la città. «Chi vi chiedeva di farlo?» gridai. E in quel momento mi si aprirono gli occhi sul contenuto di cose e discorsi la cui banalità avevo trovato così sconcertante e fastidiosa. Gli dissi che volevo sapere che cosa c'era in quella lettera. Fingevo solo in parte la durezza di tono e atteggiamento. La curiosità può essere un sentimento assai feroce, a volte. Egli si rifugiò in uno sciocco, imbronciato balbettio. Borbottò che la cosa non poteva avere alcun interesse per me. Gli avevo detto che rimpatriavo, e se rimpatriavo non capiva perché avrebbe dovuto. Questa la sua linea di difesa. Ed era tanto futile da sembrare quasi un insulto. Un insulto per l'intelligenza dell'interlocutore, intendo dire. In quella malcerta regione tra giovinezza e maturità, in cui allora io mi trovavo, si è particolarmente sensibili a tale genere di insulto. Temo che il mio atteggiamento nei confronti del cambusiere sia divenuto davvero molto rude. Ma non era nelle sue facoltà di tener testa a niente o a chi che sia, forse per colpa degli stupefacenti o delle sbornie solitarie, e quando mi lasciai andare fino a ingiuriarlo, si accasciò e si mise a strillare. Non intendo dire che sollevasse un putiferio. Fu lo strillo di una confessione cinica, ma in tono debole da far pietà. E nemmeno troppo coerente, ma quel tanto che bastò a lasciarmi a tutta prima senza fiato. Distolsi lo sguardo da lui, con legittima indignazione, e scorsi sulla soglia della veranda il capitano Gilles che assisteva pacificamente a quella scena, opera interamente sua, se così posso dire. La nera pipa fumante spiccava nella sua gran mano paterna, e così pure la grossa catena d'oro da orologio luccicante attraverso il davanti della giubba bianca. Egli emanava un'aurea di così virtuosa sagacia da far accorrere fiduciosa qualsiasi anima innocente. Accorsi a lui. «Una cosa incredibile!» esclamai. «Era la richiesta di un capitano per una nave. Evidentemente c'è in giro un comando e questo bel tipo si ficca la cosa in tasca!» Il cambusiere gridò con accenti di sonora disperazione: «Sarete la mia morte!» Anche la manata che si diede sulla fronte fu molto sonora. Ma quando mi girai a guardarlo, non c'era più. Era scappato fuori di vista chissà dove. Questa improvvisa sparizione mi fece ridere. L'incidente era chiuso, per me. Il capitano Gilles, però, fissando il punto dove prima stava il cambusiere, si mise ad alare la sua smagliante catena d'oro finché l'orologio non venne su dal profondo taschino come la verità da un pozzo. Ve lo calò solennemente di nuovo e solo allora disse: «Le 3 in punto. Farete in tempo, ma se non perdete neanche un attimo». «In tempo per cosa?» chiesi. «Ma santo Dio, per la capitaneria. Bisogna veder chiaro nella cosa». A rigor di termini aveva ragione, ma io non ho mai avuto troppa attitudine ad indagare, a smascherare la gente e a tutte quelle altre specie di cose analoghe senza dubbio moralmente meritorie, e il mio punto di vista su quell'episodio era puramente morale. Se qualcuno doveva essere la morte del cambusiere, non vedevo perché non spettava allo stesso capitano Gilles, uomo maturo, stimato e residente stabile in quel luogo, mentre io, in quel porto, al confronto, mi sentivo un semplice uccello di passaggio. Infatti sarebbe stato lecito dire che avevo già interrotti i rapporti. Brontolai che non ne avevo l'intenzione. Non me ne importava nulla. «Nulla», ripeté il capitano Gilles, dando cenni di quieto e ponderato sdegno. «Mi aveva avvertito, Kent, che eravate un giovanotto fatto a modo vostro. Vi manca solo di venirmi a dire che non vi importa nulla di un comando, dopo che oltretutto mi son dato tanta pena». «Tanta pena», mormorai senza capire. «Quale pena?» Sapevo solo che mi aveva frastornato e infastidito con i suoi discorsi per un'ora buona dopo colazione, e lo chiamava darsi tanta pena.